Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Tornando dal malato nelle sue due camere per trascorrere la notte, Levin si sedette con il capo chino senza sapere che cosa fare. Non soltanto non poteva cenare, disporsi per dormire, riflettere su quel che avrebbe fatto, ma non riusciva nemmeno a parlare con la moglie e se ne vergognava. Kitty, al contrario, era più attiva del solito. Era persino più animata del solito. Ordinò di portare la cena, disfece lei stessa i bagagli, aiutò lei stessa a fare i letti e non dimenticò di cospargerli di polvere persica. Tutto il lavoro le riusciva bene e non erano ancora le 12 che tutte le cose erano già messe a posto, con pulizia, con cura, in un certo modo particolare, sicché la camera diventò simile alla casa, alle stanze di lei. I letti rassettati, le spazzole, i pettini, gli specchi esposti, i tovagliolini stesi. Levin trovava che era imperdonabile mangiare, dormire, parlare, anche adesso, e sentiva che ogni suo movimento era sconveniente. Lei invece metteva a posto le spazzoline, ma lo faceva in modo che in questo non c'era nulla di offensivo. Non poterono tuttavia mangiar nulla, e per molto tempo non poterono addormentarsi, e anzi per un pezzo non si decisero nemmeno a coricarsi. «Sono tanto contenta d'averlo persuaso a prendere l'estrema unzione domani», disse lei sedendo in camicia davanti al suo specchio pieghevole e pettinando i capelli morbidi e profumati con un pettine fitto. «Non ho mai visto questo, ma so, me l'ha detto la mamma, che ci sono preghiere per la guarigione». «È possibile che tu pensi che lui possa guarire?» disse Levin, guardando la sottile scriminatura dietro la piccola testa rotonda che si chiudeva ogni volta che lei passava il pettine. «L'ho domandato al dottore. Lui ha detto che non può vivere più di 3 giorni. Ma come possono saperlo loro? Comunque, sono molto contenta d'averlo persuaso», disse ancora guardando il marito di fianco, da dietro i capelli. «Tutto può essere», aggiunse con quell'espressione particolare, un po' furba, che aveva sempre in viso quando parlava di religione. «Sì, quella donna, Maria Nikolaevna, non avrebbe saputo organizzare tutto questo», disse Levin. «E debbo riconoscere che sono molto, molto contento che tu sia venuta. Tu sei sempre una purezza tale che...» Le prese la mano, ma non la baciò. Baciare la mano di lei in quella prossimità della morte gli sembrava sconveniente, ma la strinse soltanto con un'espressione colpevole, guardando gli occhi di lei che si erano illuminati. «Per te sarebbe stato così tormentoso da solo», disse Kitty, e sollevando in alto le braccia, che coprirono le sue guance arrossite per la soddisfazione, arrotolò le trecce sulla nuca e le fermò con le forcine. «No, lei non sa. Io, per fortuna, ho imparato molte cose a Soden. Possibile che là ci fossero malati simili? Peggio. Per me è orribile il fatto che non posso vederlo così com'era da giovane. Non puoi credere che caro giovane fosse. Ma allora io non lo capivo. Ci credo. Sono certa che saremmo stati amici», disse Kitty. E si spaventò di quel che aveva detto. Si voltò a guardare il marito e le vennero le lacrime agli occhi. «Sì, saremmo stati», disse lui tristemente. «Ecco appunto uno di quegli uomini di cui si dice che non sono fatti per questo mondo. Comunque abbiamo molti giorni davanti a noi. Bisogna coricarsi», disse Kitty dopo aver dato un'occhiata al suo minuscolo orologio. Mm-hmm. Il giorno dopo comunicarono il malato e gli impartirono l'estrema unzione. Durante il rito Nikolai Levin pregava con ardore. Nei suoi grandi occhi, fissi sull'icona messa sopra un tavolo da gioco ricoperto da un tovagliolo colorato, si esprimevano una preghiera e una speranza così appassionate che Levin provava orrore a guardare questo. Levin sapeva che quella preghiera e quella speranza appassionate rendevano soltanto ancor più penoso per Nikolai il distacco dalla vita che amava tanto. Levin conosceva il fratello e il corso dei suoi pensieri. Sapeva che era incredulo, non perché la mancanza di fede gli permettesse di vivere più liberamente, ma perché, passo dopo passo, le moderne spiegazioni scientifiche dei fenomeni del mondo avevano eliminato in lui le credenze. E perciò sapeva che quel suo ritorno da adesso non era giustificato, compiuto attraverso un pensiero analogo, a ritroso, ma solo temporaneo, interessato, con la folle speranza d'una guarigione. Levin si rendeva anche conto che Kitty aveva ancor più rafforzato quella speranza con i suoi racconti di guarigioni straordinarie di cui aveva sentito parlare. Tutto questo sapeva Levin e gli faceva tormentosamente male vedere quello sguardo supplichevole pieno di speranza e quella mano smagrita che si sollevava con fatica e faceva il segno della croce sulla fronte fortemente stirata. Vedere quelle spalle sporgenti e quel vuoto petto rantolante che non potevano più contenere in sé quella vita che il malato chiedeva. Durante il rito anche Levin pregava e faceva quel che lui, non credente, aveva fatto mille volte. Diceva, rivolgendosi a Dio, «Se esisti, fa che quest'uomo guarisca, questo seppur ripetuto molte volte, e salverai lui e me». Dopo l'unzione, a un tratto il malato si sentì molto meglio. Non tossì neppure una volta nello spazio di un'ora. Sorrideva, baciava la mano di Kitty, ringraziandola fra le lacrime, e diceva di stare bene, di non aver male da nessuna parte e di sentire appetito e forza. Quando gli portarono la minestra, si sollevò persino da solo e chiese ancora una costoletta. Per quanto il suo stato fosse disperato, per quanto fosse evidente al solo guardarlo che non poteva guarire, Levin e Kitty, durante quell'ora, furono nella stessa eccitazione, felice e timida per paura di sbagliarsi. Meglio? Sì, molto. Sorprendente. Nulla di sorprendente. Comunque sta meglio. Dicevano essi in un bisbiglio, sorridendosi a vicenda. L'illusione fu di breve durata. Il malato si addormentò tranquillamente, ma dopo mezz'ora la tosse lo destò. E a un tratto scomparvero tutte le speranze in coloro che lo circondavano e in lui stesso. La realtà della sofferenza le distrusse in Levin e in Kitty e nel malato stesso, senza possibilità di dubbio, persino senza il ricordo delle speranze di poco prima. Dopo le 7 di sera, Levin prendeva il tè con la moglie nella sua stanza, quando Maria Nikolaevna accorse da loro ansante. Era pallida e le tremavano le labbra. «Muore!» sussurrò. «Temo che muoia subito!» Corsero tutte e due da lui. Si era sollevato ed era seduto sul letto, appoggiandovisi con un braccio, piegando la lunga schiena e reclinando in basso la testa. «Che cosa senti?» domandò con un bisbiglio Levin dopo un silenzio. «Sento che me ne vado», proferì Nikolai con fatica, ma con straordinaria precisione, spremendo lentamente da sé le parole. Non alzò la testa e rivolse soltanto gli occhi in su, non riuscendo però a raggiungere con essi la faccia del fratello. «Katia, vai via», proferì ancora. Levin saltò su e con un bisbiglio imperioso la obbligò a uscire. «Me ne vado», disse di nuovo. «Perché lo pensi?» disse Levin, tanto per dire qualcosa. «Perché me ne vado?» ripeté lui come se avesse preso ad amare quell'espressione. «È la fine». Maria Nikolaevna gli si avvicinò. «Dovreste sdraiarvi, stareste meglio», disse. «Presto giacerò tranquillo», disse lui. «Morto», disse ancora con irrisione, con ira. «Adagiatemi se volete». Levin adagiò il fratello sulla schiena. Si sedette accanto a lui, guardandone il volto senza respirare. Il moribondo giaceva con gli occhi chiusi, ma sulla sua fronte ogni tanto si muovevano i muscoli come in un uomo che pensi profondamente e intensamente. Senza volerlo, Levin pensava insieme con lui a quel che adesso si compiva in lui. Ma nonostante tutti gli sforzi del pensiero per procedere insieme con lui, dall'espressione di quel viso tranquillo e severo e dal gioco del muscolo sopra un sopracciglio, vedeva che per il moribondo si andava chiarendo e si sarebbe definitivamente chiarito ciò che per lui sarebbe rimasto oscuro. A lungo, molto a lungo, come sembrò a Levin, il malato giacque immobile. Tuttavia era vivo e di tanto in tanto sospirava. Levin era stanco per la tensione mentale. Sentiva che con tutta la tensione della sua mente non riusciva più a capire ciò che accadeva. Sentiva che già da un pezzo era rimasto indietro al moribondo. Ormai non poteva più pensare alla questione in sé della morte, ma senza volerlo gli venivano pensieri su ciò che adesso avrebbe dovuto fare. Chiudere gli occhi, vestire, ordinare la bara. E strana cosa, si sentiva completamente freddo e non provava né dolore né senso di perdita né ancor meno compassione per il fratello. Se adesso aveva un sentimento verso il fratello, era piuttosto di invidia per la conoscenza che ora il morente possedeva e che lui non poteva possedere. Rimase ancora a lungo a sedere chino su di lui, aspettando sempre la fine. Ma la fine non veniva. Si aprì la porta e apparve Kitty. Levin si alzò per fermarla, ma mentre si alzava sentì un movimento del moribondo. «Non andare via», disse Nikolai e protese una mano. Levin gli diede la sua e fece con ira un gesto alla moglie affinché se ne andasse. Con la mano del morto nella sua mano rimase a sedere mezz'ora, un'ora, un'altra ora. Ormai non pensava già più alla morte. Pensava a quel che faceva Kitty, chi abitasse nella camera vicina, se il dottore avesse una casa propria. Gli venne voglia di mangiare e di dormire. Liberò con cautela la mano e tastò le gambe. Le gambe erano fredde, ma il malato respirava. Di nuovo Levin in punta di piedi fece per uscire, ma il malato di nuovo si mosse e disse «Non andare via». Si fece giorno. La situazione del malato era sempre la stessa. Dopo aver liberato piano piano la mano, senza guardare il moribondo, Levin andò nella sua camera e si addormentò. Quando si svegliò, invece dell'annuncio della morte del fratello che si aspettava, seppe che il malato era ritornato nelle condizioni di prima. A tutte le domande che gli facevano su come si sentisse, rispondeva nello stesso modo con un'espressione di rancore e di rimprovero. «Soffro spaventosamente, insopportabilmente», Il malato soffriva sempre di più, specialmente per le piaghe che ormai non si potevano più curare, e sempre di più si arrabbiava con i circostanti, rimproverandoli di tutto e specialmente di non avergli portato lì il celebre dottore di Mosca. Kitty si sforzava in ogni maniera di aiutarlo, di calmarlo, ma tutto era inutile, e Levin vedeva che anche lei, benché non lo ammettesse, era fisicamente e moralmente esausta. Quel senso della morte che era stato suscitato in tutti dal suo congedo dalla vita nella notte in cui aveva chiamato il fratello, ora era distrutto. Tutti sapevano che inevitabilmente presto sarebbe morto, che era già morto a metà. Tutti desideravano una cosa sola, che morisse al più presto. E tutti, nascondendo questo, gli davano boccette di medicine, cercavano medicine, dottori, e ingannavano lui e se stessi, e si ingannavano a vicenda. Tutto questo era menzogna, una menzogna disgustosa, offensiva e sacrilega. E Levin sentiva in modo particolarmente doloroso questa menzogna, sia per una qualità del suo carattere, sia perché più di tutti amava il morente. Passarono ancora 3 giorni tormentosi. Il malato era sempre nella stessa condizione. Adesso tutti coloro che lo vedevano provavano il desiderio della sua morte. I camerieri, il padrone dell'albergo, tutti i locatari, il dottore, Maria Nikolaevna, Levin, Kitty. Solo il malato non manifestava questo sentimento, ma al contrario si arrabbiava perché non gli avevano portato il dottore e continuava a prendere le medicine e parlava di vivere. Soltanto in rari momenti, quando l'oppio lo costringeva per un attimo a obliarsi, talvolta diceva nel dormiveglia ciò che più fortemente era nella sua anima. Oh, venisse almeno la fine. Quando finirà? Il 10° giorno dopo l'arrivo nella città, Kitty si ammalò. Le venne mal di testa, vomito, e per tutta la mattina non poté alzarsi dal letto. Il dottore spiegò che la malattia era prodotta dalla stanchezza, dall'agitazione, e le prescrisse tranquillità. Dopo il pranzo, tuttavia, Kitty si alzò e andò come sempre con il suo lavoro dal malato. Quando lei entrò, egli la guardò severamente e sorrise di disprezzo quando lei disse che era stata male. Quel giorno lui si soffiava continuamente il naso e gemeva lamentosamente. «Come vi sentite?» gli domandò lei. «Peggio», proferì lui con fatica. «Mi fa male». «Dove fa male?» «Dappertutto». «Quest'oggi finirà?» «Guardate», disse Maria Nikolaevna, sia pure con un bisbiglio, ma in modo che il malato, assai sensibile, come notava Levin, dovette sentirla. Levin la zittì e si voltò a guardare il malato. Nikolai aveva udito, ma quelle parole non gli avevano fatto nessuna impressione. Il suo sguardo era sempre lo stesso, accusatore e teso. «Perché lo pensate?» le domandò Levin quando essa uscì dietro di lui in corridoio. «Ha cominciato a spogliarsi», disse Maria Nikolaevna. «Come a spogliarsi?» «Ecco, così», disse lei, tirando le pieghe del suo vestito di lana. Effettivamente anche lui aveva notato che durante tutto quel giorno il malato agguantava quel che aveva indosso e sembrava voler strappar via qualcosa. La previsione di Maria Nikolaevna era giusta. Verso notte il malato non aveva più le forze di sollevare le braccia e guardava soltanto dinanzi a sé, senza mutare l'espressione intenta, concentrata dello sguardo. Anche quando il fratello o Kitty si chinavano su di lui in modo che potesse vederli, anche allora guardava in quello stesso modo. Kitty mandò a chiamare il prete per leggere la preghiera degli agonizzanti. Mentre il prete leggeva la preghiera, il morente non dava alcun segno di vita. Gli occhi erano chiusi. Levin, Kitty e Maria Nikolaevna erano in piedi accanto al letto. La preghiera non era ancora stata letta sino alla fine dal prete che il morente si stirò, sospirò e aprì gli occhi. Il prete, terminata la preghiera, appoggiò la croce alla fronte fredda, poi la volse lentamente nella stola e, dopo aver sostato ancora un paio di minuti in silenzio, toccò la mano enorme che si era fatta fredda ed esangue. «Espirato», disse il prete e fece per allontanarsi. Ma improvvisamente i baffi del morto, sino allora appiccicati, si mossero e nel silenzio, dalla profondità del petto, si udirono con chiarezza i suoni netti e distinti. «Non del tutto. Presto». Un momento dopo la faccia si illuminò. Sotto i baffi emerse un sorriso e le donne che si erano raccolte si accinsero indaffarate a vestire il defunto. La vista del fratello e la vicinanza della morte rinnovarono nell'anima di Levin quella sensazione di spavento di fronte all'inesplicabilità e insieme alla vicinanza e all'inevitabilità della morte che lo aveva preso quella sera d'autunno in cui il fratello era arrivato da lui. Questa sensazione adesso era ancor più forte di prima. Ancor meno di prima egli si sentiva capace di comprendere il senso della morte e ancor più spaventosa gli appariva la sua inevitabilità. Ma adesso, grazie alla vicinanza della moglie, questa sensazione non lo induceva alla disperazione. A onta della morte sentiva la necessità di vivere e di amare. Sentiva che l'amore lo salvava dalla disperazione e che quest'amore, sotto la minaccia della disperazione, diventava ancor più forte e puro. Non aveva fatto in tempo a compiersi sotto i suoi occhi un mistero di morte rimasto inesplicato, che ne sorgeva un altro non meno inesplicabile che chiamava all'amore e alla vita. Il dottore confermò le proprie supposizioni sul conto di Kitty. Il suo malessere derivava dalla gravidanza.